Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Cari amici radioascoltatori, bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto con la trasmissione e l'appuntamento settimanale ogni sabato alle ore 14 e domenica alle 12.30 con Fuori di Noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori e al mondo giovanile. In collaborazione con Noi Treviso, Noi Padova, Noi Venezia, grande famiglia quella del Noi che riunisce, coordina e segue più di 1300 oratori sparsi in tutto il territorio nazionale con 350.000 tesserati e oggi da parecchio tempo ha un nuovo consiglio direttivo il cui presidente è Don Marco Saiani, presidente anche di Noi Trento. Iniziamo questa puntata purtroppo, ahimè, senza la collaborazione, la voce preziosa, l'apporto di Anna Zampieri. Anna Zampieri, mia fidata collega di Fuori di Noi, perché è impegnata a Roma. Speriamo di raggiungerla telefonicamente forse alla fine di questa puntata. Racconteremo con gli amici della CR di Biadene la loro esperienza all'interno della parrocchia e avremo anche un ospite particolare che ci racconterà da Milano le giornate del Family Day 2012, appuntamento importantissimo perché noi quando parliamo di oratori fondamentalmente, cari radioascoltatori, parliamo di famiglie. Gli oratori all'interno della comunità parrocchiale servono anche a valorizzare il tempo libero della famiglia nel senso più ampio del termine, adulti, giovani e anziani tutti insieme per trascorrere in questi ambienti un momento di divertimento, di svago, ma anche di formazione. E quando parliamo di famiglie e quando parliamo di oratori, siamo nel periodo caldo. Siamo a giugno ed è partita l'iniziativa del Grest che quest'anno si chiama Stella, ispirato alla figura biblica di Ester. Se volete informazioni andate sul sito www.noigrest.it, troverete tutte le proposte estive degli anni passati e il sussidio, diciamo gran parte del materiale che appunto potrete trovare nelle librerie per quanto riguarda il sussidio 2012 che appunto, come ho detto prima, si chiama Stella. Per quanto riguarda Noi Treviso Associazione, cioè gli eventi legati al Grest qui nella diocesi di Treviso, c'è già un calendario fitto. I tre più grandi appuntamenti, due diciamo quelli caratterizzanti il nostro territorio, li ricordo, sono sabato 16 giugno 2012 dalle ore 19.30, sabato 16 giugno presso il Parco Giochi Acquatico dell'Acqua Estate di Noale è la festa diocesana degli animatori del Grest, un appuntamento attesissimo che segna l'inizio della stagione dei Grest presenti nella nostra diocesi. È anche una favorevole occasione affinché gli animatori di vari paesi e oratori si incontrino e facciano amicizia perché accomunati dallo stesso spirito che è quello del Grest e renderanno appunto questa festa familiare. Ci sono dei tornei sportivi e tante sorprese, quindi partecipate sabato 16 giugno dalle ore 19.30 alla grande festa diocesana per gli animatori del Grest, Acqua Estate di Noale. Appuntatelo nella vostra agenda. Secondo grande appuntamento, questo rivolto a tutti i partecipanti animatori animati, è la festa diocesana del Grest che anche quest'anno troverà diciamo ospitalità presso la grande, bella e verdeggiante Villa dei Reali ad Osson, fissata per venerdì 6 luglio dalle ore 9.30 del mattino. Il vescovo di Treviso, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, sarà presente, incontrerà i bambini, i ragazzi di tutti i Grest della diocesi di Treviso. Un appuntamento che questo è diventato consuetudine da diversi anni. Vuole essere un momento di festa, di gioia. Infatti non a caso si chiama Festa d'Estate, la festa diocesana dei Grest si chiama Festa d'Estate, una occasione di incontro, di divertimento per migliaia di giovani e anche qui saranno tante le sorprese, tante le attrazioni perché ci sono i giochi, c'è il momento della preghiera, c'è il momento degli stand che ovviamente divertiranno per tutto il corso della giornata, 9.30 del mattino fino circa alle 14.30, 15 del pomeriggio, venerdì 6 luglio. Parco Villa dei Reali ad Osson. E poi abbiamo un altro grande appuntamento, quello che non riguarda soltanto Treviso ma il Triveneto, il raduno del Noi del promosso appunto da Noi Triveneto, sempre riguardante il Grest, martedì 10 luglio a Caldiero, Verona, presso il Parco Acquatico Terme di Giunone. È un evento particolarissimo che riunisce tutti i circoli oratori, tutti i Grest provenienti da tutte le tre diocesi. da tutte le diocesi delle tre regioni. È una speciale occasione per conoscersi e per fare Grest. Quindi Grest Raduno Noi Triveneto, non mancate anche a questo appuntamento, martedì 10 luglio a Caldiero Verona, presso il Parco Acquatico Terme di Giunone. E se volete mandarci un'email a questa trasmissione a Fuori di Noi, mandate a fuoridinoi@libero.it. Le canzoni di questa puntata di Fuori di Noi le hanno scelte i ragazzi della CR di Biadene, che poi ascolteremo verso la terza parte di questo programma. E quindi iniziamo subito con la prima canzone che hanno scelto i nostri amici, che è una canzone di Giorgia, cantante nostra italiana, grandissima voce, grandissima artista, che ci canta un brano estivo bello e vivace, e lo dedichiamo a tutti i radioascoltatori di Blu Radio Veneto. Giorgia con Tu mi porti su. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Quando t'ho incontrato è scattato il gioco della seduzione. Tutti e due a spendere la merce più invitante sul bancone. Sguardi sfuggevoli, pose svenevoli, fughe in avanti e misti convenevoli. Siamo animali sensibili all'odore, noi siamo umani in cerca dell'amore. Tu l'hai capito che cos'è che io cercavo? Qualcuno che ogni attimo mi dicesse brava. Tu mi hai attratto ed io mi sono innamorata. E come un 747 sono decollata, sorretta dal tuo sguardo come vento sulle ali. E verso il sole qualche cosa mi diceva sali, oh sali, oh sali. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Così che va la vita, così che va l'amore. Un giorno mentre tutti ci dicevano che coppia innamorata, ho visto nei tuoi gesti il sospetto di non essere ricambiato. E poi se a un certo punto ci lasciamo, tu sei qualcosa, ma io che cosa sono? Pensiero che si insinua tra le crepe anche dell'anima più pura. L'amore più bellissimo ad un tratto cede il posto alla paura. Ali di cera che si sciolgono al sole, pensieri, parole. Ali di cera che si sciolgono al sole, è sempre imprevedibile la rotta dell'amore. E cado, oh cado. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. E se non sbaglio, in questa canzone c'è anche un contributo da parte di Jovanotti, una canzone fresca estiva come appunto il caldo che è arrivato prepotentemente nelle nostre zone. Ma adesso noi ci colleghiamo per la prima volta, per quanto riguarda la nostra trasmissione Fuori di Noi dedicata al mondo degli oratori e al mondo giovanile, e tocchiamo anche un tema molto molto importante. Parliamo di famiglia e andiamo a contattare una persona che è al di là, appunto, in collegamento telefonico, addirittura da Milano. Vediamo se è in linea. Lilia, ci sei? Ciao. Ecco, allora tu ci parli da Milano. Innanzitutto presentati un pochettino. Chi sei? Cosa fai? Dove lavori? Allora, sì, dunque, io sono Lilia. Sono moglie e madre di due figlie di 11 e 17 anni. Lavoro in un centro di formazione professionale a Milano, che si chiama Expop, è un ente cattolico che, diciamo, che accoglie adolescenti prevalentemente nell'area del disagio. Sì. Io mi occupo dell'area tecnico-professionale nel percorso di acconciatura. Ah, quindi tu segui praticamente le future parrucchiere o parrucchieri. Esatto. Allora, ti abbiamo chiamato, Lilia, perché facciamo un piccolo preambolo. Appunto, in queste giornate, in questi giorni, si svolge qualcosa di molto speciale a Milano. Tutte le famiglie, tante famiglie da diverse parti del mondo si ritrovano anche con il Santo Padre per parlare, per affrontare, per discutere, per riflettere sul grande tema, forse il tema principale, diciamo, dei nostri giorni, cioè il tema della famiglia. Che cos'è una famiglia? Quali sono le problematiche? Quali sono le difficoltà? Allora, tu come stai vivendo questo periodo? Raccontaci un pochettino la tua esperienza proprio nella città dove si sta svolgendo appunto il Family Day 2012. Esatto, sì. Allora, io dunque ci tengo a precisare che, vabbè, sono da un po' di anni sono catechista nella mia parrocchia e sì. di San Vittorio, e faccio parte del consiglio pastorale. Ed è proprio appunto per questo che mi sono sentita subito coinvolta, diciamo, in questo grande evento, dando l'adesione per ospitare una famiglia e preparandomi anche a livello appunto personale per far sì che questo appuntamento possa essere vissuto dentro di me nel migliore dei modi, ecco. Certamente, noi vi abbiamo anche, è stato anche, questo è un grande appuntamento, e diciamo che la diocesi di Treviso, meglio il Veneto, è molto legato alla Lombardia, perché poco tempo fa avevamo appunto il Cardinal Scola come patriarca e adesso è l'Arcivescovo di Milano e sta lanciando appunto questo grandissimo appuntamento. La domanda delle domande te la facciamo subito all'inizio. Allora, quali sono, visto che tu sei anche madre, quindi hai una famiglia, diciamo, che segui e che in qualche maniera appunto cerchi di valorizzare, di sottolineare, appunto, di sottolineare anche l'importanza. Quali sono, secondo te, secondo la tua esperienza, gli ingredienti, diciamo, fondamentali, quali possono essere le cose, le caratteristiche più importanti per una serena vita familiare? So che è una domanda che si fanno tutti e le risposte magari non ci sono, ma secondo la tua esperienza di donna e di madre? Ecco, allora, dunque, io parlo appunto per la mia esperienza, spacchiamo il mito che è la qualità e non la quantità di tempo che si vive in famiglia. Ecco, io questo lo sto veramente sperimentando. La presenza è davvero fondamentale, ci si deve fermare comunque, ci si deve fermare, si deve dialogare con i nostri figli, con il nostro marito, e questo ha bisogno di tempo, ha bisogno di tempo. Il confronto, il dialogo, il mettersi in gioco, ecco, il saper accettare soprattutto le difficoltà, le nostre e quelle dei nostri figli. Cioè, come anche i piccoli o i grandi, purtroppo, fallimenti nostri e dei nostri figli. Ecco, questi, io penso che questi sono davvero i migliori ingredienti che devono essere amalgamati con il vero ingrediente, che è la preghiera. Ecco, anzi, se fosse recitata insieme, io penso che davvero sia ancora meglio. E credo anche che la fede davvero aiuta tanto, aiuta ad affrontare e a superare, ecco, e a superare anche le più grandi prove. Certamente. Ti chiedo una cosa, allora si parla appunto di famiglia in queste giornate, è il centro, diciamo, anche di tutta la Chiesa, ma io credo della società in generale, che sia appunto credente o non credente, la famiglia oggi vive, lo sentiamo da diverse parti, un momento di crisi. Forse va rilanciato, meglio, va raccontata ancora di più, con una forza ancora più convinta e anche più gioiosa, che il sistema famiglia è ancora, diciamo, il fondante, diciamo, la colonna portante di una società. Forse va rilanciata queste giornate, forse servono anche a rilanciare questo istituto. Tu, dal tuo osservatorio, da amici, parenti, eccetera, anche dal fatto che sei un insegnante, la vedi la famiglia in salute, ha qualche difficoltà? Cioè, vedi dei segni che ci dicono, che ci incoraggiano, diciamo, a rilanciare questo istituto, a vedere, diciamo, oltre ovviamente alle normali difficoltà, anche qualcosa di enormemente nuovo che sta nascendo all'interno della famiglia, oppure no? Assolutamente sì, io sono ottimista. Io vorrei fare una precisazione e quindi cercare appunto di vedere positivo. Sì. Allora, esistono famiglie sane, esistono famiglie nelle quali si può crescere credendo nei valori cristiani. Esistono famiglie nelle quali ci si confronta, si affrontano i problemi insieme, si cercano soluzioni condivisibili. Ecco, ci sono, questo davvero per certo, lo sperimento e lo vivo, lo vedo. Certo, sì, ci sono anche famiglie in crisi, in situazioni difficili, per difficoltà economiche, relazionali, insomma, famiglie che si sfasciano purtroppo perché non si è più disposti a tollerare, ecco. C'è da dire anche che le famiglie spesso però non sono tutelate, ecco, non sono aiutate dalla società, ma spesso questa purtroppo contribuisce a portarla alla deriva. Ecco perché bisogna assolutamente rimettere al centro della società la famiglia. La famiglia come patrimonio dell'umanità. Certo. E cercare anche di recuperare il senso vero della domenica come momento di festa, ecco, e cercare anche di condividere gli scambi, di esperienze, ecco, io credo che tutto questo bisogna assolutamente farlo, e questo evento, questo appuntamento può davvero rilanciare tutto questo e dare speranza e fiducia. E noi cerchiamo anche all'interno del nostro piccolo, il nostro mondo oratoriale, che però è sempre in espansione, proprio come hai detto tu, di valorizzare la festa, quindi di invitare la famiglia a partecipare appunto alla Santa Messa, e poi non correre subito a casa, preparare da mangiare, partire, portare il ragazzo, ma di vivere un po' di convivialità, dove in un ambiente come quello oratoriale, dove si può parlare, dove si può scherzare e poi giocare insieme con i propri figli. Qualcuno diceva nelle passate, diciamo, puntate, parlando di oratorio, che oggi la famiglia, o meglio i genitori, fanno difficoltà, hanno poco tempo, non tanto per parlare con i propri figli, ma per giocare. Noi nel nostro piccolo, appunto, nei nostri oratori invece cerchiamo di metterli assieme, generazioni diverse, bambini, adulti, anziani, che magari si ritrovano semplicemente per giocare, non far grandi discorsi o grandi conferenze. Giocare insieme insegna, educa e fa crescere. Ti chiedo una cosa, Lilia. Sì. Allora, tu abbiamo già detto che sei anche un insegnante, quindi sì, hai, diciamo, un osservatorio privilegiato, con ovviamente tra difficoltà, successi, insuccessi, conquiste, eccetera, con i giovani, e quindi tu vedi i giovani appunto dell'area appunto milanese dove tu vivi, dove tu lavori. Ma ti chiedo, i giovani oggi secondo te credono ancora nel valore della famiglia? Insomma, come li vedi oggi questa gioventù? Com'è la gioventù milanese, quella che tu incontri quotidianamente nel tuo ambiente lavorativo? Allora, dunque, guarda, io ho due visioni dei giovani. Allora, molti di quelli che incontro a scuola spesso sono sfiduciati, sono senza valori, molti sono confusi, smarriti, mai in ricerca. Sono purtroppo anche senza, diciamo, non hanno figure di riferimento importanti, diciamo pochi modelli positivi, ecco, e questi giovani purtroppo, appunto, con i quali vivo, difficilmente credono nella famiglia, perché spesso non ce l'hanno, ecco, perché non hanno un riferimento, diciamo, che possa in qualche maniera entusiasmare, dice, e quindi dire vado a formare una famiglia, ma che famiglia ho io, esatto, diciamo, da ovviamente con cui confrontarmi. Esatto. Ci sono però anche altri, diciamo, altri tipi di giovani, che sono invece appunto quelli che hanno obiettivi ben chiari, anche credono che si possa donare qualcosa agli altri, credono nell'amore, credono nell'amicizia e nella condivisione. Ecco, ci sono giovani che hanno tutto questo anche perché hanno davvero degli adulti di riferimento, dei modelli positivi, delle persone che sono per loro davvero importanti, ecco, dal punto di vista proprio educativo. Io però vorrei dire un'altra cosa molto, certo, molto importante, che sperimento, e lo dico proprio davvero con sincerità. Allora, a volte proprio da quei giovani così sfiduciati, però, ecco, si possono scoprire delle risorse che magari neanche loro sanno di avere, e allora davvero, cioè, ecco che quando si fanno queste scoperte e quando anche loro stessi si accorgono di questo, ecco che davvero tutto è possibile, davvero anche l'impossibile diventa possibile per loro. Benissimo, Lilia, ultima domanda, hai 30 secondi, te la faccio. Sì. a sì. Freddo, sì. Cosa vuol dire oggi fare l'insegnante, l'educatore? Allora, 30 secondi, allora vediamo un po', allora vuol dire allora cercare di trasmettere loro le mie competenze attraverso la determinazione, la pazienza e l'amore. L'amore che peraltro io per fortuna ho per la mia professione, ma soprattutto trasmettere ai ragazzi la speranza di un futuro che valga la pena di vivere. Benissimo, Lilia, allora innanzitutto ti salutiamo, parrocchia di San Vittore di Milano. Auguriamo a te ogni bene, alla tua famiglia e a tutte le famiglie che stanno partecipando in questi giorni appunto al Family Day 2012 e che abbiamo in qualche maniera incontrato con la tua telefonata e con i tuoi contributi. Grazie ancora Lilia. Grazie di aver... grazie Lilia ancora, grazie. Benissimo, e adesso passiamo al secondo brano musicale, sempre dedicato e suggerito dall'ACR di Biadene, con Michel Teló, Ai se tu pego. Se va! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia. Un'altra canzone freschissima estiva, appunto, che continua, diciamo, e fa da trade union in questo programma che si chiama Fuori di Noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori e al mondo giovanile. Purtroppo, come ho detto all'inizio, non c'è vicino a me una delle responsabili dell'Azione Cattolica Diocesana della CR per lanciare la rubrica che da qualche, da diverso tempo, appunto, ci accompagna in questo contenitore. Rubrica dedicata ai gruppi ACR che vengono qui a Blu Radio Veneto negli studi per registrare i propri contributi e per raccontare cosa di bello fanno all'interno della loro parrocchia e insieme con i loro educatori. E quindi è il momento de... In oratorio si vola alto! In oratorio si vola alto e vediamo come gli amici, i ragazzi dell'ACR di Biadene hanno saputo volare alto nella propria parrocchia, nella propria realtà. Buon pomeriggio a tutti, siamo il gruppo di ACR di Biadene e adesso vi presenteremo la nostra parrocchia. Nome del paese? Biadene. Nome della parrocchia? Biadene. Comune? Montebelluna. Numero di abitanti? 7.000. Nome del parroco? Don Mariano. Età del parroco? 109 meno 40 meno 20 più 30 meno 10, cioè 69. Tre gruppi in parrocchia? ACR, ACG e gruppo famiglie. ACR quando? Di sabato. A che ora? Dalle 15 alle 16.30. ACR, quanti siamo? Circa, 30 circa. I tuoi educatori? Francesca e Salvatore. Nell'ultimo incontro abbiamo parlato di... Abbiamo incontrato il Pier Giorgio Frassati e abbiamo imparato con lui a volare alto. L'ACR a me piace perché... L'ultima attività prima del convegno ci siamo immedesimati in Peter Pan e abbiamo pensato ai nostri pensieri felici per riuscire a volare in alto e mi è piaciuto perché abbiamo capito che anche le piccole cose ci rendono felici. Durante la Quaresima abbiamo fatto un'attività sulla Via Crucis dove dovevamo scagionare Pietro e Giuda. Noi eravamo gli avvocati e abbiamo capito che Pietro potevamo scagionarlo perché si era pentito, mentre Giuda non abbiamo saputo che sentenza dare. Abbiamo imparato che quando uno si pente Gesù ci perdona. All'inizio dell'anno abbiamo fatto una caccia al tesoro a coppie per decidere le regole della CR. Al campo scuola, il giorno della camminata, ho imparato ad essere più fiduciosa negli altri. A marzo abbiamo giocato a Scotland Yard per imparare ad essere un gruppo unito. A febbraio abbiamo fatto un percorso bendati, tenendoci per mano, intorno alla chiesa, e ci ha servito per aver fiducia negli altri. Abbiamo fatto un'attività di Tiberiade in Quaresima e abbiamo fatto una passeggiata fino alla chiesa del nostro patrono, Santa Lucia, e abbiamo fatto delle tappe. Le attività principali durante l'anno? Le attività principali sono state la festa del Ciao, la festa della Pace, le attività di Avvento e Quaresima, Tiberiade e Convegno diocesano. Bene, allora abbiamo saputo cosa di bello appunto fanno i nostri amici CR di Biade. Mi è arrivata un'email in questo momento ed è indirizzata a Carlotta, che dovrebbe essere una responsabile all'interno della parrocchia di Biade. Carlotta, gli aderenti di Azione Cattolica di Biade sono 80, e qua mi si scrive appunto che ci siamo dimenticati di dirlo, eccetera. Nella scheda del paese di Biade si sono dimenticati di dire che gli aderenti alla Azione Cattolica sono 80, il numero preferito e più importante per gli amici di Biade. Ecco. Ma mi pare che ci sia un altro contributo degli amici di ACR. Un grandissimo saluto da Giulia, Benedetta, Chiara, Elisa, Anna, Nicole, Alice, Matteo, Ilenia, Francesca e Salvatore. Un grande saluto dalla CR di Biade, ciao! E noi ricambiamo i saluti, ricambiamo anche i saluti e ringraziamo Lilia della parrocchia di San Vittore di Milano, che ci ha un po' raccontato cosa sta succedendo al Family Day 2012, parlando appunto della famiglia. E quindi non ci resta che augurarvi una buona settimana, ci risentiamo la prossima, sempre il sabato alle 14, domenica alle 12.30 su Blu Radio Veneto con Fuori di Noi. Ciao a tutti! Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.